Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, grazie alla vittoria di Napoli è stato il Milan dunque a prendere la scia della Lazio, per meriti suoi, oggettivi, ma anche per demeriti del Napoli. A cominciare, a parer mio, da quell'avvio strano in cui girava a vuoto per il ring per poi cominciare a boxare solo dopo che l'avversario l'aveva messo al tappeto per la prima volta. Oggi ne parliamo con un napoletano d'eccezione che mi sono permesso di convocare per coltivare il verbo era previsto dopo, per coltivare il sondaggio per le Maradona, questo tormentone che ci accompagnerà per l'intera settimana in occasione dei due compleanni, dei 70 anni di Pelé già arrivati e dei 50 di Maradona attesi per sabato. Un monumento del calcio napoletano, ripeto, come Antonio Totonno Iuliano, cui do il benvenuto alla Tempo di Sport. Buongiorno. Buongiorno, senta, io partirei dalla constatazione, abbastanza amara per Napoli, secondo me, che ieri sera il Napoli ha fallito il salto di qualità. Ed è, secondo me, un peccato due volte, perché questo ha l'aria di essere un campionato in cui anche l'outsider ci può stare per vincere o comunque per arrivare in fondo. È d'accordo o no? Io penso che innanzitutto è un po' ancora troppo presto per poter dare dei giudizi un poco più definiti, perché ci sono squadre che adesso partecipano ancora a competizioni internazionali, ci sono ancora i residui molti giocatori che hanno partecipato ai mondiali, sì. Su 8 partite giocate, diciamo su 24 punti, troviamo la Lazio prima in classifica con 19 punti, cui significa che gli altri hanno un passo veramente, direi, non mediocre, ma più o meno, io parlo delle altre, le grandi. Io ho notato ieri sera, ma mi corregga se sbaglio, ho notato tre errori, tre lacune che potrebbero spiegare il risultato finale. Il primo, gliene elenco uno per uno e lei me li commenta, può darsi che abbia visto bene o che abbia visto male. Il primo è l'approccio. Cioè in 20 minuti, non dico mezz'ora, ma quasi, il Napoli ha fatto fatica a passare metà campo in 11 contro 11 e ha dimostrato dopo invece, creando parecchie occasioni da gol, che probabilmente osando un po' di più sin dall'inizio non avrebbe subito quella situazione di svantaggio. Sì, indubbiamente il Napoli ha un peccato originale da tanti anni, quello che non è in grado di fare la partita. Cioè il Napoli è una squadra, cioè ha questo DNA che è negativo, cioè questo DNA che gioca sull'altra squadra aspettando, perché facendo così riesce, avendo questi tre giocatori io li reputerei fantastici, cioè questo Lavezzi, questo Cavani e Hamsik, sì. Cioè che sono giocatori che praticamente devono trovare degli spazi per potersi esprimere al meglio delle loro qualità. Sì. E allora il Napoli usa, questo può essere anche una tattica del Napoli, cioè usa la maniera di far sì che la squadra avversaria li attacca per cercare di avere degli spazi per cercare di fare il loro gioco e di mettere in evidenza questi fantastici tre giocatori. Si capisce. Però purtroppo il calcio non va sempre bene. Lei ha ragione quando dice che il Napoli forse ha fatto la prima mezz'ora direi un approccio sbagliatissimo. Cioè che sembra proprio, cioè, che se il Milan non avesse fatto il gol, se non ci fosse stata l'espulsione, non ci fosse stata neanche questa grande reazione del Napoli, perché poi il senno del poi non lo possiamo sapere, perché il Napoli giocando in 11 ha dimostrato di non valere quello che poi è successo giocando in 10. Giocando in 10, perfetto. Gli altri due errori, uno su uno possiamo anche sorvolare, perché pazienza, è ovvio, no? Che ha commesso due sciocchezzuole, mettiamola così, no? È quel raptus dell'individuale che contro cui c'è poco da fare. Invece un'altra cosa che accenterei è questa. Il Napoli ha subito il gol di Robinho, quello che praticamente ha orientato la partita in 10 contro 11, perché in quel momento Maggio è fuori. Ora, io le domando, lei è stato giocatore, capitano, è stato dirigente, è stato... Se dopo lo scontro Maggio-Antonini era praticamente già in ospedale e Maggio però si era visto che a sua volta ha avuto un colpo in faccia, cioè non era il caso per prudenza di cominciare a far scaldare un giocatore in maniera che nel momento in cui Maggio avesse avuto un problema non restava in 10 e non c'era il tempo morto del riscaldamento? Si pensava che Maggio potesse giocare, infatti lui stesso ha pensato di poter giocare, poi sì, nel momento che si è reso conto, cioè che ha realizzato, perché molte volte queste situazioni in campo non c'è una valutazione, queste valutazioni le dovrebbero fare gli specialisti tipo medici, tipo è quello che dico, che dovrebbero capire se è il caso di, però poi chi è che ti dà la risposta definitiva rimane il giocatore. Sì, questo è vero. Il giocatore che debba capita che l'allenatore, il medico chieda al giocatore cosa si sente per poter continuare. Ma non credo che questo, io penso che questa sia stata una fatalità, cioè che nel momento che è mancato un attimino Maggio, che era, non era ancora in ordine, il Milan ha fatto il gol. Bisogna anche considerare che oggi molte partite, io non vorrei esagerare, ma penso almeno il 60-70% delle partite che si giocano si risolvono tutte in situazioni per fatalità più che per meriti. Vabbè, poi i meriti poi sono... Per il fatto di pazienza bisogna che i giocatori incominciano a fare anche un po' di mea culpa, perché cioè, se tu hai commesso un errore e hai preso un cartellino giallo inutile, quello che ha preso la prima in area, cartellino con la mano, cioè devi anche sapere che fai un altro intervento e rischi di andare via. Cioè, io penso che un po' di responsabilità e un po' di colpa è giusto che se la prendano anche i giocatori, perché non mi sembra troppo comodo dire l'arbitro è uno che attua il regolamento su ciò che succede. Bravissimo. Adesso lo può attuare in modo positivo per una squadra o in modo negativo, questo poi insomma è un regolamento che poi va interpretato. Però io penso che debba essere il giocatore che, essendo lui la materia prima, capire che deve cercare di fare un po' più di attenzione. Un breve intervallo, Giuliano. Il tempo di sentire come va sulle strade. Giuliano, noi domani dedichiamo la nostra puntata a una banalità, se vuole, anche nazional popolare, però insomma credo che Pelé Maradona, visto che uno ha compiuto gli anni 70 di Pelé lo scorso sabato e Maradona sabato ne fa 50, insomma, credo che la suggestione... Beato lui, che è ancora giovane. Beato lui, bravissimo. Allora, la suggestione è questa. Lei ha giocato 16 minuti della finale mondiale del 70 contro il Brasile di Pelé e poi 14 anni dopo da dirigente del Napoli ha portato a Napoli niente meno che Diego Maradona. Allora io le chiedo intanto i suoi ricordi, qualche ricordo su Maradona, su quello confronto con Pelé eccetera, e poi alla fine le chiedo anche un voto, cioè se davvero per lei Maradona è stato meglio Pelé, come si dice. Allora incominciamo da Pelé. Sì. Dubbiamente non a caso si diventa il miglior giocatore del mondo, perché evidentemente ci sono le qualità superiori a tutti gli altri. Sì. E Pelé aveva queste qualità, io mi è rimasto impresso il gol che lui ha fatto di testa, dove c'era Burnic, che Burnic è stato un grandissimo difensore, che per qualsiasi attaccante era duro giocare contro Burnic. E mi ricordo, ecco, che sono saltati e Pelé, a differenza di altri giocatori, quando saltava riusciva a rimanere in aria per una frazione di secondo in più degli altri. Cioè, e questo gli dava questa grande possibilità di poter colpire prima degli altri. Cioè, Pelé, insomma, era secondo me il migliore in assoluto in quel 1970, in quel periodo, in quell'epoca. Giocato, certo. Forse abbiamo avuto la possibilità di vederlo poco, meno, perché non c'erano i mezzi che ci sono adesso, perché io, certo, penso che se ci fossero stati i mezzi a livello di televisione, sì, mediatici di adesso, io penso che Pelé in assoluto sarebbe stato il migliore, sì, senza nessun problema. Ma poi nel calcio di oggi non sarebbe, la interrompo solo un istante, non sarebbe rimasto in Brasile per l'intera carriera, perché nel calcio di oggi avrebbe fatto l'Europa prima o poi, no? Credo. Io penso che anche con questi mezzi mediatici attuali il mondo si è ristretto un po', cioè prima sembravano tutti più lontani, adesso mi sembra tutto più vicino. È vero, ha ragione. E poi è venuto fuori, ecco, poi parliamo di questo ragazzo che per me è questo... Questo, no, questo è un è stato un extraterrestre calcistico. Cioè, questo non fa parte dell'umanità, cioè questo non era un giocatore come gli altri, ecco, per lui poteva essere anche umano, mentre questo era un extraterrestre. Cioè, per me, io le cose che ho visto fare a Maradona, cioè solo lui le ha potute fare. Cioè, e dato che noi poi abbiamo avuto la fortuna di vedere le epoche calcistiche, perché sì, sa, ogni epoca ha i suoi grandi calciatori, è difficile fare dei paragoni tra, ecco, non so, tra Di Stefano e Pelé, tanto per fare, sì, un esempio, o fare un paragone tra Di Stefano e Sigori. Sì. La buon'anima di Sigori. Cioè, nel calcio io penso che è difficile fare paragone, e ogni calciatore ha la sua epoca. Sì. A differenza, diciamo, di tutte queste epoche, l'unico che secondo me va messo in un gradino più in alto è stato Maradona. È stato Maradona. Cioè, questo è fuori discussione, perché non è umano, cioè quello che ha fatto questo giocatore è non si può definire umano. Cioè, è uno che secondo me veniva da un altro mondo e è venuto ad arricchire una disciplina sportiva in questo mondo dove veramente man mano nel tempo veniva a mancare. Non c'è dubbio. Lei che lo ha... Insomma, immagino, no? Ma poi lo ricordo anche che insomma, lo ha seguito, lo ha fatto seguire, lo ha seguito a Barcellona, lo ha seguito ai tempi in cui aveva quella gamba fratturata da Goicoechea. È stato quello, credo, l'epoca in cui è maturata ancora di più l'idea di portarla a Napoli. Quindi lei l'ha vissuto prima, l'ha vissuto durante. Io ricordo personalmente che vedere giocare Maradona era una gioia per gli occhi, e non solo per gli occhi, ma vederlo allenare quando si degnava, non sempre, vederlo allenare, io ogni tanto venivo a Soccavo ed era lì sì che bisognava pagare il biglietto, a parer mio. O no? Sì, era una gioia vederlo più in allenamento che nelle partite. Diciamo che Maradona per me personalmente è stato, come dire, che io purtroppo io a livello calcistico ho ottenuto quasi tutto, cioè ho giocato nel Napoli in Serie A, sono andato in nazionale, ho giocato campionati del mondo, campionati d'Europa. Cioè, però non mi sentivo realizzato come calciatore, perché non ho mai potuto partecipare a una Coppa dei Campioni, cioè mi è mancato questo, sì, in effetti, come calciatore nella mia città. E il fatto che di aver fatto in modo che Maradona venisse a Napoli, diciamo che ero spinto anche da questo rammarico di non aver, sì, potuto realizzare a livello di calciatore vincere un campionato, partecipare, certo, a un campionato di Coppa dei Campioni, e allora ho pensato che questo giocatore potesse portare a Napoli quello che io non sono stato in grado di potergli dare, cioè da giocatore. Sì. E questo poi fortunatamente è successo, insomma, perché io penso che nella vita ti succede un caso di questo una volta. Sì. Per cui noi Napoli siamo stati fortunati, diciamo, anche a poterlo prendere e a poter dare a questa gente di questa città, che in effetti ha un amore sfegatato per il calcio, e logicamente aver avuto anche la gioia di poter vivere un momento di grande felicità, per me è stato un grande orgoglio. Giuliano, sai che lo slogan della nostra radio, di Radio 24, è "La passione si sente". Sa che questo slogan è anche il suo, direi, perché la passione con cui ci racconta questo, con cui ci ha raccontato Maradona, ma anche il contesto in cui l'ha inserito, perché poi lei ha detto: io ho giocato nel Napoli, ho avuto delle soddisfazioni in nazionale. Lei nel Napoli ha giocato 394 partite, perché ho qua sotto gli occhi i dati, ne ha giocati 18 in maglia azzurra, lo dico per i più giovani, ha giocato una finale mondiale nel Messico, ha vinto il campionato europeo con l'Italia del 68, quindi non stiamo parlando di uno che ha tirato due calci al pallone e poi ha fatto il dirigente, però la passione, l'affetto con cui a distanza di tanti anni ha ricordato, no, questo extraterrestre, davvero è stata una testimonianza che ci ha fatto una enorme... Questo perché io penso che i napoletani mi perdonano tutti gli altri, i napoletani hanno qualcosa in più, questa è stata sempre la mia filosofia, la mia idea, cioè il problema dei napoletani è cercare di stare bene assieme, se si riuscisse a stare meglio assieme, io penso che sarebbe un grande popolo. Ci lasciamo con questo messaggio, Giuliano. Io la ringrazio davvero per questa sua testimonianza. Spero che lo ascoltano tanti napoletani, perché stia certo. È un motivo di orgoglio per tutti, secondo me, riuscire a migliorarci. Grazie, Giuliano. A presto. Arrivederci. Oh, vi ricordo che a Pelé e Maradona, a questi due compleanni, verrà dedicata l'intera puntata di domani con una serie di sorprese e un approfondimento particolare, arricchito da personaggi che li hanno visti e magari ci hanno anche giocato insieme. È attivo sul sito di Radio 24 il sondaggio sull'home page e funzionerà fino a tutto giovedì, cioè fino alla puntata di giovedì compresa, anche se, vi ripeto, è domani mercoledì questo appuntamento particolare. Subito dopo l'intervallo cambieremo argomento e tra l'altro parleremo del fatto che è uscita la lista dei 23 giocatori per il Pallone d'Oro e incredibilmente con la I maiuscola non c'è Diego Milito tra i candidati possibili. Adesso le borse. Era una notizia attesa da un paio di giorni, adesso è diventata ufficiale da pochi minuti. Due giornate di squalifica a Krasic per prova televisiva, lo ha deciso il giudice sportivo, leggo dal comunicato della Lega Calcio, dopo aver visionato il filmato che dimostra la simulazione in area del giocatore juventino nella partita contro il Bologna. Ha chiamato Antonio da Napoli, e di nuovo Totò Giuliano, no? No. Antonio, dica Antonio. No, no, non sono io, non è male. Io ho sentito dire che, diciamo, l'arbitro avrebbe applicato il regolamento, ma io ho visto Ibrahimovic e Aronica fare a botte e non si è fatto nulla. Ho visto Socrates fare l'intervento d'espulsione e non si è fatto nulla. Chi ha fatto l'intervento d'espulsione? Socrates, il greco. Poi ha fatto diciamo, l'intervento d'espulsione a piedi di pure Bonera e non si è fatto nulla. Antonio, lei... Antonio, abbiamo chiacchierato per un quarto d'ora, 20 minuti con un grande signore come Totò Giuliano, non mi disfi l'immagine di Napoli su cui Giuliano poi si è esibito nel finale del suo intervento, e direi a me, mi pare vedere partite di calcio con i suoi occhi, non con quelli di Mazzarri, perché credo che tutta Napoli avrebbe da guadagnarne. Massimiliano, provincia di Como, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Certo, forte e chiaro. Allora, premesso che sono anche napoletano, dove sono andato, nella provincia di Como, e che sono parzialmente d'accordo con quanto ha detto il suo professore, sento che se io sono con De Laurentiis, con Mazzarri, con Bigomi, che hanno costruito una squadra, l'impegno di oltre. Però certi episodi mi lasciano alquanto perplesso, mi fanno pensare che forse il campionato già assegnato quest'anno. Però comunque le chiedo, cosa pensa appunto della squadra che è stata costruita, di Napoli piuttosto che dell'arbitraggio, visto che dell'arbitraggio è brutto parlarne, perché altrimenti si pensa che noi napoletani ci lamentiamo soltanto. No, ma no, no, Mazzarri è livornese, però è libero docente in lamentele gratuite, ripeto. Io credo che se c'è una partita, no, ce ne sono tante, ma se c'è una partita in cui c'è ben poco da discutere dal punto di vista arbitrale, quello di ieri sera. Poi questo non significa che Rizzoli sia stato perfetto, anzi, non significa che i giocatori si siano comportati tutti con lealtà, perché Robinho certamente non è stato leale quando ha finto di aver subito un colpo duro in faccia, anziché dove l'aveva subito, ma queste sono, purtroppo fanno parte della routine del calcio e non solo sui nostri campi. Però mi sembra che, e lo dicevo all'inizio, le responsabilità del Napoli ieri sera siano superiori a quelle di chiunque altro, responsabilità negative, perché si è visto dopo che in 10 contro 11, e lo diceva e lo faceva notare bene Giuliano prima, in 10 contro 11 il Napoli per certi tratti ha messo sotto il Milan, ha rischiato di subire più volte il secondo gol prima di prenderlo, davvero, ma in 3-4 occasioni è andato vicinissimo al pareggio. Ha sbagliato l'approccio alla partita nettamente, ha sbagliato, ripeto, secondo me, e io credo che qui le responsabilità della panchina ci siano, perché bisognava assolutamente far scaldare un giocatore al posto eventuale di Maggio, insomma, tenendo presente che Maggio da un momento all'altro avrebbe potuto accusare i contraccolpi di quel colpo così violento, come poi in effetti è accaduto, questo non essendoli poi, è che la tramvata che si sono dati Antonini e Maggio, a uno è costato l'uscita dal campo subito, ma a quell'altro la poteva costare, e insomma non è reato far scaldare un panchinaro, no? Anche se sia pure sotto l'acqua. E poi questa sciocchezza di pazienza, credo che non ci sia altro che ha inciso sul risultato. Ma per evitare che diventi il muro del pianto, perché sinceramente due interventi così potevo anche aspettarmeli, ma avrei preferito per Napoli e per il Napoli che non ci fossero, io darei il bentornato a Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Grazie Gigi, buongiorno a tutti. Senti, intanto c'è una notizia triste, perché è morto il polpo Paul. È morto il polpo Paul. Questo non è bello. È passato a miglior vita anche lui. Devo dire, è stato un grandissimo protagonista dei mondiali, lui con le vuvuzela, insomma, il contorno, cioè è uno che il suo mondiale l'ha vinto, insomma, che ha trovato una popolarità veramente esagerata, e insomma sarà difficile rimpiazzarlo, insomma dovremo tutti farcene una ragione, fa parte di tutto quel contorno che durante il mondiale diventa evento e durante il mondiale costruisce personaggi che magari in altre situazioni non supererebbero le brevi di cronaca, invece siamo arrivati al punto, io lo ricordo bene quel periodo, perché cioè si andava a trovare gli amici spagnoli e questi facevano la radiocronaca o addirittura anche la telecronaca nel giorno della semifinale e poi della finale del vaticinio del polpo, quindi insomma eravamo alla follia totale, però in quei 40 giorni secondo me ci stava. Senti, questa è la notizia triste, insomma, entro certi limiti di giornata. Ce n'è una invece che è perentoriamente allegra, nel senso che è talmente comica che si fa fatica a crederla. La lista dei 23 candidati al Pallone d'Oro, che è stata resa nota stamattina, che comprende, per carità, un sacco di spagnoli, ma comprende anche, insomma, gente che si fa un po' fatica, no, a inserire, tipo Asamoah, tipo Daniel Alves, tipo anche qualche altro, ma insomma in ogni caso non comprende Diego Milito. Allora per l'ennesima volta bisogna provare a ripassare i canoni che ispirano queste scelte. Ma guarda, la prima, Gigi, che mi viene è quando io questa cosa l'ho scoperta con te prima ascoltandoti nella chiusura dell'intervista con Giuliano, sinceramente forse dovrebbe essere la volta buona che smettiamo di parlarne, cioè smettiamo di parlarne, cioè tu sai, io so cosa ne pensi tu sai cosa ne penso io, insomma chi ascolta Radio 24 dal 99, sono in tanti, sanno con quanta ritrosia ci avviciniamo a questo premio e quanto poco ci scaldi, però sappiamo che interessa molto e quindi ne parliamo. Credo onestamente che questa sia veramente l'ultima, cioè potremmo davvero far sì che questa edizione sia l'ultima della quale ne parliamo, perché trovo che non esista una motivazione, cioè capisco i motivi, cioè non capisco, riesco a capire perché sia stato escluso, cioè quando, nell'anno del mondiale il pallone d'oro di fatto si limita ad analizzare un mese di stagione e quasi dimentica gli altri 11, ma sinceramente mi sembra, cioè, trovarci anche lo stesso Xabi Alonso che è un campione del mondo ma che non ha fatto delle cose memorabili. Certo. Né in Champions League, dove è uscito agli ottavi, e comunque neanche nella Spagna, perché non era uno degli anelli forti della squadra di Del Bosque, è certamente un grande giocatore, ma non può essere uno preferito a Diego Milito, quindi insomma resto perplesso, continuo a pensare che sia un premio del quale si parla fin troppo. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Anche perché del pallone d'oro poi si comincia a parlare davvero da marzo, sì, e poi... Sì, sì. Beh, però insomma che un premio così prestigioso tutto sommato alla fine e comunque così reclamizzato, così diventato così immanente addirittura sulla vita del calcio da occupare l'attenzione e la curiosità degli sportivi, anche dei creduloni, mettiamoci pure, per mesi e mesi e mesi, poi insomma, escluda Diego Milito da con quello che ha combinato lo scorso mese di maggio, sinceramente è una notizia, no, nel suo genere, è una notizia dell'orrore. A parer mio, Gigi, Milito forse il pallone d'oro poteva anche non meritare di vincerlo, intendiamoci, perché se lo consideriamo... Stiamo parlando di 23 giocatori. Esatto, forse. Cioè che ci siano 23 giocatori che possono meritare una candidatura e non ci sia nemmeno spazio per una candidatura all'uomo che così bene ha fatto, certamente fino a maggio, perché il Mondiale Milito l'ha visto, l'ha guardato, poi in campionato non è che abbia iniziato e nemmeno in Champions League alla grandissima, però ci sta, cioè secondo me il pallone d'oro l'hanno vinto in passato giocatori che hanno fatto molto meno di quello che ha fatto Diego Milito in questa stagione. Non c'è nessun dubbio. Parliamo di questo nuovo caso spagnolo che stavolta, a differenza che nei due casi precedenti, si è risolto a fin di bene. C'è questa crisi cardiaca di Garcia, giocatore di seconda divisione, e ripeto, per fortuna c'è stato il lieto fine stavolta. Per fortuna c'è stato il defibrillatore, perché altrimenti avremmo rivissuto un caso Dani Arche piuttosto che di altre situazioni nelle quali purtroppo chi è stato protagonista non può più raccontarla. Garcia non giocherà più a calcio ed è un bene a questo punto, perché evidentemente il suo cuore aveva dei problemi. In Spagna si stanno facendo delle domande, finalmente, a parer mio, perché questo è un periodo nel quale tra il doping nel mondo del ciclismo e tutte queste situazioni che non possono a questo punto essere semplicemente un caso, cioè non è possibile che in Spagna succeda, non dico una volta all'anno, ma più o meno un problema cardiaco a un giocatore, e io senza avere alcuna base per dire questo e senza assolutamente voler fare alcuna illazione, trovo che tutto il mondo dello sport spagnolo si debba domandare perché queste cose accadano quasi esclusivamente lì, cioè ripeto, bene che ci fosse il defibrillatore, ma non è possibile che ci siano così tanti casi, siamo veramente esageratamente sopra la media, e di giocatori che in alcuni casi non avevano mai nemmeno dato il minimo sospetto di avere dei problemi, perché insomma Puerta, Arche, adesso Garcia e poi ce ne sono certamente altri nelle serie minori, insomma, a me pare che il campanello d'allarme fosse già suonato, sì, e che a questo punto imponga una riflessione vera da parte dello sport. Sì, come minimo una maggior severità nell'idoneità sportiva, cioè nei controlli e negli esami di idoneità sportiva, questo proprio è il minimo. L'ultimo intervallo di oggi, le strade. Torniamo in compagnia di Fabio Tavelli e continuiamo a esaminare, in attesa poi di un paio di vostri interventi in conclusione di puntata, torniamo ad argomenti europei. Dal punto di vista sportivo il fatto eclatante del fine settimana è accaduto certamente in Olanda. Sì, il 10-0 del PSV contro il Feyenoord. da un lato c'è la correttezza da parte di chi ha vinto di non fermarsi, nel senso di giocare la partita e di rispettare l'avversario, anche un avversario in ginocchio, ma evidentemente un avversario che non ha chiesto pietà ed evidentemente non l'ha ottenuta. Dall'altra c'è l'imbarazzo con il quale sia l'allenatore del Feyenoord, che poi un po' tutti abbiamo visto, perché cioè, può capitare nei campetti di provincia quando lo squilibrio è grande. In questo momento il PSV è la capolista del campionato olandese e il Feyenoord naviga in posizioni brutte, però da lì ad esserci 10 gol di differenza ce ne sta. È un campionato nel quale le difese non sono mai brillantissime, però quello che è successo domenica credo che da un lato possa far sorridere, dall'altro non è mai una buona notizia per il calcio. Cioè, quando una squadra batte l'altra 10-0 in un campionato professionistico non è una notizia della quale essere allegri. Insomma, ci può sempre stare, però e ci può anche essere la giornata nella quale tiri 10 volte in porta e fai 10 gol, perché poi i gol li ho visti alcuni. Sì, anch'io, ma magnifici, alcuni magnifici. E quindi cioè delle grandi giocate, e quindi è giusto che il PSV abbia fatto tutti i gol che meritava. Sono sicuro che insomma su 5-0 non abbiano cercato di affondare il coltello nella lama, però ci sono anche partite nelle quali ti riesce tutto. Certo. È come un giocatore di tennis che vince 6-0, 6-0, 6-0, insomma, se gli entra il grande colpo, perché deve accontentarsi di aspettare l'errore dell'avversario? È un modo anche quello di rispettare l'avversario, quello di giocarsela fino in fondo, anche se poi equivale in qualche caso ad infierire. Che cos'altro estrapoliamo dal fine settimana europeo, eventualmente da proiettare in prospettiva? Guarda, ti dico una cosa che non riguarda il fine settimana, ma stavo vedendo sul sito di Marca. Intanto che nella home page di Marca la morte del Polpo Paul si prende una bella fetta ed è una delle aperture. E tra l'altro il titolo, adesso che te lo vado a recuperare, dice è morto il mitico, muere il mitico Pulpo Paul o Paul, insomma, poi bisogna intendersi. Ed è accanto a un'intervista a Leo Messi, il quale dice che il mio favorito per il pallone d'oro, i miei favoriti per il pallone d'oro sono Xavi e Iniesta. Ma c'è la curiosità del Barcellona, che in Coppa del Re gioca a Ceuta, che è una delle due enclavi che la Spagna ha in territorio africano. E la curiosità di Marca, che secondo me è interessante, è che Pep Guardiola giocò nel 2001 in Coppa proprio contro il Ceuta in trasferta, giocava appunto nel Barcellona, e in quella partita venne sostituito da Xavi, da quello che è diventato un suo giocatore, ed è una cosa interessante. Carina molto. Senti, allora poi ci dedicheremo a Inghilterra, Germania e agli altri campionati la prossima settimana. Chiudiamo, visto che siamo rimasti in Spagna, chiudiamo con questo batte Messi, no? A metà pomeriggio, no, verso fine pomeriggio, e batte due gol decisivi fuori casa, risponde Ronaldo a distanza di un paio d'ore e gliene picchia quattro, sia pure in condizioni più facili. Non è male comunque. No, non è male. La sensazione è che queste due squadre adesso stiano cominciando a mettere delle marce alte, per cui credo anche che la preparazione del Real Madrid fosse questa, cioè di entrare in temperatura anche per poi come dire, fare un richiamo a Natale, grosso modo a Natale, e poi sparare tutto da febbraio in poi. Il Barcellona non mi stupisce che ogni tanto debba fare un pochino fatica, soprattutto con i giocatori spagnoli, e che si affidi soprattutto al talento immenso di Leo Messi. Credo che il vero Barcellona, se sarà vero Barcellona, lo vedremo nel 2011, cioè quello che abbiamo detto anche in passato, cioè il Barcellona deve cercare di prendere meno punti di distacco nella fase solare, cioè fino al 31-12, e poi cercare di rientrare, proprio perché anche cambiare data sarà psicologicamente importante per i giocatori che quest'anno hanno vinto il Mondiale. Resta il fatto che il Real Madrid, del quale tutti parliamo giustamente per le grandi doti degli attaccanti, per la grande produzione in attacco, è una squadra che fa veramente una gran fatica a prendere gol, e questo è un altro dei dettati o dei dettami murignani più classici, cioè Mourinho prende molto pochi gol. Questa è la vera specialità della casa, esatto. Su questo ci certo, sono poi, pochi dubbi. Se davanti hai Milito, Sneijder l'anno scorso, o Eto'o, o quest'anno c'è Cristiano Ronaldo e altri, diventa più facile, perché sì, già se ne fai fare pochi agli altri. E altri discreti, tra l'altro. Sì, sì. Se Benzema è l'ultima delle riserve d'attacco, effettivamente qualcosina si può mettere insieme senza enorme sforzo. Grazie Fabio. A voi, alla prossima, ciao. E allora chiudiamo anche questo collegamento, un paio di interventi degli ascoltatori e poi vi ricordo l'appuntamento di domani. Francesco ha chiamato da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno signor Anzi. Volevo parlare della partita di ieri del Milan, premetto che sono milanista, però no, non mi piace vincere facile, diciamo che per me c'è stato un caso di Papa Stadopoulos nella spallata al limite dell'area, buttandolo giù, non è stato neanche ammonito, essendo stato munito prima non ha usato lo stesso criterio con... Assolutamente no Francesco, non fallo di gioco, questo è un normalissimo fallo di gioco, tra l'altro su quel campo in quelle condizioni di agibilità è un fallo di gioco ancora più normale, ancora più, per cui non capisco questa sorta di autoflagellazione. Forse dobbiamo ripassare un po' tutti i regolamenti, ecco, perché davvero questa è una cosa da Mazzarri, ma non certamente da osservatori obiettivi e ragionevoli di episodi di calcio, ripeto, in particolare su quel genere di campo. Grazie comunque. Angelo da Bari, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Mi dica. La chiamavo per la squalifica sacrosanta di Krasić, in relazione però alla simulazione di Robinho, e quindi mi chiedo, la differenza fra i due episodi qual è? Il fatto di essere ingannare l'arbitro? Se vuole le faccio un disegno, Angelo. No, io credo che tentare di far espellere un avversario con una simulazione inaccettabile equivalga grosso modo a ottenere un rigore, peraltro ottenuto in maniera veramente ridicola, però riformiamo, cercando di fare entrambi in maniera... Giro, guardi, io non mi pronuncio, giro il suo intervento ai responsabili dei regolamenti, i regolamenti arbitrari, lo giro alla FIFA, all'UEFA, a chi crede, e perfetto, almeno così un po' alla volta cambieremo finalmente questo regolamento e non ci saranno più queste disparità. Ora, sia ben chiaro, il comportamento di Robinho non è affatto un comportamento di lealtà, tant'è vero che lo stesso Allegri lo ha censurato a fine partita responsabilmente, però queste fanno parte del... purtroppo fanno parte di un malcostume diffuso su cui il calcio ha deciso di essere possibilmente severo ma non implacabile, ha deciso di esserlo con le simulazioni in area che falsano i risultati in maniera diretta e immediata. È una scelta loro, non è né sua né mia, ma se lei non riesce a stabilire la differenza, il problema in parte secondo me è anche suo. Sentiamo che cosa ha scovato Nicola Filippone per il giorno 26 di ottobre. Sembra ieri. 26 ottobre 1986, Alain Prost su McLaren trionfa nel Gran Premio d'Australia, ultima prova stagionale, aggiudicandosi il secondo titolo mondiale consecutivo. Prima della gara c'erano altri due piloti in lizza per il titolo, Mansell e Piquet, entrambi della Williams. All'inglese sarebbe bastato un terzo posto per portare a casa il titolo. Ma lo scoppio di uno pneumatico a meno di 20 giri dal termine lo costringe al ritiro, spianando la strada al trionfo di Prost. Le ultime sul sondaggio sul sito di Radio 24, Maradona è a 64, Pelé a 36, ma insomma siamo evidentemente agli inizi di un tormentone che poi ci accompagnerà, ripeto, almeno fino a giovedì. La puntata speciale dedicata a Maradona è meglio Pelé? Punto interrogativo, con molti interventi, uno più autorevole dell'altro, è fissata invece per domani. Per il momento grazie a Fabio Cantadoni in regia, a Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio. Tempo di sport.